23 e 16 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa. Abbiamo salutato ora Lili Refrain. Che suonerà sabato prossimo all'Ateneo Occupato. Insieme a Misanthropos da Latina e Rota de Ferro da Roma. Vecchie conoscenze di Radio Onda Rossa. Questo è l'incipit di Mana, ma ci andiamo a ascoltare noi non questa traccia. Ma la bizzarra terza traccia, che si chiama Hey Cool, Lili Refrain, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. 23:35 minuti primi in questa puntata in cui abbiamo così fatto un esperimento di mancanza di soluzione di continuità del passaggio tra uno spazio musicale all'altro, proprio perché poi l'ospite che con cui abbiamo conversato si prestava bene a entrambe le trasmissioni. Quindi ringraziamo Elettro, ringraziamo Lily Refrain e Secchetto e tutta la crew che era lì con lei. E dopo Eiku da Mana di Lily Refrain abbiamo ascoltato Lisa Gerrard. Lavoro del 2007, se non andiamo errati. Pilgrimage of Lost Children. Poi Jarbo, undicesima traccia dal suo lavoro. Che si chiamava Mahakali. Ascend. E poi l'uscita più recente, quella di Anna Calvi, che sentite ancora sotto la nostra voce. Si tratta della raccolta della colonna sonora di un serial televisivo, Peaky Blinders, stagione 5, stagione 6, e proprio dalla sesta stagione abbiamo ascoltato qui c'è un errore proprio di digitazione, di, come si dice, di impaginazione, un refuso, perché riporta 12 Rabias Fever e poi 12 di nuovo e non 13 Giant Perfume. Forse motivi scaramantici, forse un refuso. Comunque Anna Calvi. In tutto ciò però, appunto, in questo fluire fra prove tecniche di trasmissione 25 o'clock, non vi abbiamo reso partecipi dell'emittente dei dati, delle coordinate dell'emittente che state ascoltando e di tutte le informazioni necessarie affinché possiate contribuire a far sì che questa emittente continui ad esserci. C'è che alle 22:39 di mercoledì 27 novembre siete all'ascolto di Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa che si sente sugli 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Si sente in DAB dalle province di Viterbo e di Terni. Si sente in streaming ovunque voi siate collegati ad una rete. www.ondarossa.info è il sito, appunto, andate su Sostieni e leggete con attenzione tutte le modalità con cui è possibile sostenere Radio Onda Rossa. Ricordiamo comunque il numero del conto corrente postale della radio 6180401 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185 Roma San Lollo. Vi ricordiamo inoltre il modo di contattare la radio, cioè la redazione della radio, attraverso la email ondarossa@ondarossa.info e poi tutti i vari social su cui la radio è presente. E qui Anna Calvi si cimenta in una cover, una vecchia cover di Nick Cave. Noi preferiamo ascoltare la cover che l'originale, dato il non proprio retto comportamento del vecchio occupante di Berlino Ovest degli anni Ottanta, le cui scelte odierne in tema di luoghi dove andare a suonare non ci risultano assolutamente familiari. @ondarossa.info è la mail per stufarci, anche via mail 06 491 750, recapito telefonico della radio. Noi andiamo avanti . Abbiamo ascoltato prima Mahakali di Jabbo. In cui figurava Attila Xar. Attila Xar, che è il poliedrico cantante di doom metal di origine ungherese, che ha prestato a lungo la voce anche nei San O. Noi proprio i San O abbiamo preventivato, abbiamo caricato sul CD a destra, ed esattamente Big Church, lunga traccia. Fra chitarroni pesantissimi e voci e cori femminili, sanno Big Church. We'll be right back. 23:59 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa, e 9 anni fa usciva questo cortartodo per gli Zoo, da cui abbiamo ascoltato la terza traccia che si chiama appunto Cortartodo. E in questo mondo di pesantezze, di alternanza fra dilatazioni e compressioni, in questa atmosfera onirica che questa notte abbiamo cercato di creare, e nell'attesa che il nostro Robertone si svegli, passetto passetto, vecchio compagno di Monterotondo a cui mandiamo nell'etere un abbraccio, è un segno di vicinanza, insomma. Anche se appunto lui se la dorme e non ci può ascoltare, però appunto ci ascolta. Attraverso i canali dell'empatia e di chi ha fatto un bel pezzo di vita comune insieme, da Manandrini. E quindi dalla Ipakec, che ha prodotto questo, questo è il primo lavoro prodotto dalla Ipakec per gli Zoo. Passiamo alla Nuclear Bust, che è l'etichetta che produce un po' da sempre, ci sembra, le produzioni dei Ministry. Ne parlavamo oggi al telefono di come si può rompere questa spirale che ci attanaglia tutti di produci, consuma, crepa, e forse Ministry di Moral Hygiene del 2021 ci danno una dritta. Broken System, Ministry, a Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Life will never be the same. Life will never be the same. Life will never be the same. Life will never be the same. Life will never be the same. Life will never be the same. Life will never be the same. Life will never be the same. 18 minuti dopo la mezzanotte, Radio Onda Rossa 25 o'clock. www.ondarossa.info, 87.9 della modulazione di frequenza da Roma e provincia. E invece in DAB dalle province di Viterbo e di Terni, e infine in streaming. E ci siamo ascoltati dopo i Ministry. La penultima uscita per i Grails. Calis Imni, l'inno al calice del 2017. Poi c'è un'ultima uscita Anxious and Matt del 2023, che non eravamo a conoscenza fino a questo momento, ce lo siamo perso. Comunque Grails, che non producono proprio lavori a raffica, ma quando li producono sono sempre di grande importanza. E poi questo bel lavoro del 2021, che abbiamo mandato all'epoca in lungo e in largo. Calab Mberra Ensemble, Mberra. Da qui abbiamo ascoltato Carfew, il coprifuoco, quindi. Marhani. 0649175050, recapito telefonico della radio. Illuminate di rosso la redazione della radio più rossa che c'è. E le abbiamo dette tutte stasera, eh sì, la radio è anche questo, è anche. Fatta di piccole slogan, piccole trovate lessicali. Vabbè. Però l'importante è che voi ci siate all'ascolto, tutte e tutti. Noi continuiamo l'esplorazione dell'ultimo lavoro per quanto riguarda i Melvins, uscito proprio nel 2024, registrato nel 2023, anzi diciamo le note di copertina portano 2023, in realtà l'album è uscito un po' più tardi, e cioè nei primi mesi di quest'anno, che va avvolgendo al termine. La scorsa settimana abbiamo ascoltato la prima traccia di 20 minuti, Pain Equals Funny. La seconda traccia si chiama Work in the Ditch, un po' più corta, ce l'andiamo ad ascoltare questa notte. Dai, 25 o'clock, Radio Onda Rossa. Mohammed Vannana Arabi. نخبط فعلا عينات الموسيقى كامل اشكرك على الاخبار والموسيقى الحاج جفالي جروب تاع الجاسوس Onda Rossa, 29 minuti dopo la mezzanotte, questi erano i Melvins. Melvins che, come sapete, hanno cambiato un numero di batteristi straordinario in tanti anni di carriera. Dal 1983, fate il calcolo voi. Quarantun anni. Più di 10 batteristi cambiati. Tarantula Earth che scorre ancora sotto la nostra voce, sono arrivati a Roy Mojarga, quindi senz'altro uno dei batteristi più influenti sulla piazza, e che Buzz Osborne dice di essere molto soddisfatto del lavoro fatto da Roy. Roy Mojarga Santos, detto Mauritius Mauris, classe 1970, batterista polistrumentista statunitense, ha suonato, per dirla tutta, a partire da Nausea, crustpunk newyorkese, fino poi a Shelter, I Torn, I Soulfly e poi questa apparizione anche con i Melvins. Insomma, un bel palmarès. Melvins sempre più super gruppo e sempre più collettivo, che richiama continue collaborazioni. Nel frattempo, come a conclusione ormai un po' di puntata a questa parte, andiamo ad Amburgo con una band di fiati, una marching band come dicono loro stessi. Mute. We'll be right back. Siccome che si è fatta una certa, noi ci apprestiamo ad andar via. Impareremo prima o poi a pronunciare correttamente Mitt, qualcosa del genere. Lo faremo dire alla voce artificiale la prossima volta, che quella parla tutte le lingue del mondo. Xilofoni, fiati, elettronica, insomma. Allora, noi lasciamo le programmazioni in diretta di Radio Onda Rossa per questa notte. Vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata, che vi diletterà e delizierà con le selezioni musicali bizzarre. E ancora più bizzarre le alternanze con le repliche delle corrispondenze dei redazionali fatti dalla radio. Si riprenderà in diretta domani mattina con la lettura delle prime pagine dei giornali, della rassegna stampa, la rassegna stampa cittadina. I redazionali della mattina del giovedì fino alle 12.30 circa, in quanto poi alle 12.45 c'è la replica di Impatto. E poi dalle 14 alle 15 tutta scena cinema, la trasmissione sul cinema, sui film di Radio Onda Rossa. 15.30, 16.30, tac! Ve la ribeccate dal lunedì sera la replica di Disorder. 17.18 le skin del Soul. 20.21.30 Tabula Rasa, la trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa. 21.45 in Noctibus Panis, approdato al palinsesto del giovedì, nonché recuperatore delle sigle, insomma, che è un ruolo importante qua in radio, dal momento che spesso e volentieri lascio la sigla dentro il lettore di CD. All'epoca avevamo il Banana, adesso è stato sostituito da Fagiolino, che ringraziamo. E poi a chiudere alle 23 in avanti Apostasia, i cuginetti del giovedì notte. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro che ci ascoltano in una condizione limitata di libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, famigerati, centri di detenzione per migranti. Gente delle carceri che spesso ci scrive con grande nostro piacere, e ci scrive anche dimostrando che la radio arriva almeno nelle carceri romane. E forse chissà anche, non so se i DAB, perché un tempo solamente le radio FM potevano entrare in carcere, addirittura all'inizio addirittura solo le radio AM. Poi bontà loro, è stata fatta sta concessione. Fatto sta che le mura delle carceri sono ancora troppo alte e troppo solide. Ed è per questo che produciamo la scarceranda ogni anno, ed è per questo che ci ritroviamo ogni anno sotto il carcere, dire Bibbia, il 31 dicembre. Ed è per questo che rendiamo conto ogni volta che qualcuno si raduna sotto una delle carceri italiane. Perché Radio Onda Rossa crede che si possa vivere senza il carcere. Bella a tutte e a tutte, ci risentiamo mercoledì prossimo, forse, chi lo sa, boh. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, dai! dreams, I'll share our dreams under a communist.